È un po' come passare al bar prima di tornare a casa, parlare alla radio e ascoltare la trasmissione. La Zanzara di Giuseppe Cruciani. In Parlamento sono più di 600 noti avvocati, imprenditori stempiati, porno dive che lavorano per te. Guarda da grande, farò il parlamentare o quantomeno il portaborsa. È tornato, caro Parenzo, l'attacco in qualche caso sconsiderato alla politica, alla casta. Si parla da decenni, te lo spiego io, si parla da decenni in Italia sempre delle stesse cose. È vero, per colpa dei politici che non riducono i loro privilegi, eccetera eccetera. Bravo. Però non c'è dubbio che ciclicamente poi si interrompe, a un certo punto torna l'attacco ai parlamentari, eccetera eccetera. E si incrocia naturalmente con tutte queste considerazioni la vicenda Papa. La vicenda Papa: domani si voterà in Parlamento per decretare l'arresto o no dell'ex magistrato che qualche traffico, non c'è dubbio, dalla sua posizione privilegiata di parlamentare lo faceva. Ecco. Andiamo a sentire quello che viene fuori da Radio Padania. Per quanto riguarda Papa, la Lega dovrebbe avere uno scatto d'orgoglio ed essere onesta. In che senso essere onesta? Spieghi. Privilegiare le persone oneste. Quindi no a Romano, no a Papa, no a Del Lutri. Io penso che la Lega ormai a questo punto, cioè, non bisogna andare a finire nel burrone insieme a Berlusconi. Secondo me è il momento di fare un passo indietro e che si faccia quel che si faccia, cioè questo Papa che venga processato o venga preso. Secondo me no, perché appunto con questa magistratura così politicizzata, fino a quando non ci sarà la sentenza definitiva, non deve assolutamente essere arrestato. È possibile che dovremmo affogare fino alla fine per perdere il governo e non esistano due persone da poter sostituire i nostri due leader, Berlusconi e Bossi? Quantomeno il portaborse o chissà. La Mussolini, voto segreto su Papa, poi vedo gli orologi e mi cadono le braccia. E noi voteremo con voto segreto, quindi sarà la coscienza di ognuno, capirai. Quindi la se sua coscienza, Papa, cosa le dice? La mia coscienza, io quando l'ho visto dagli orologi, cioè se cadono le braccia. Che lei è il diluvio universale. E bisogna dire che tra base leghista e leghisti che voteranno nel segreto dell'urna, tra eretici, tra virgolette, del PDL, non so quanti saranno quelli che seguiranno le direttive di Berlusconi, che nei giorni scorsi, come sai, Parenzo, ha detto: beh, bisogna votare contro l'arresto di Papa, altrimenti è come Tangentopoli, cioè non bisogna darla vinta alla magistratura. Poi certo succedono queste cose, per esempio questa mattina un magistrato molto importante, il procuratore della Repubblica di Milano Edmondo Bruti Liberati, cosa fa? Legge i giornali, no? Sulla sua scrivania ci sono tutti i giornali allineati e vede il titolo e la vignetta di Libero: rivolta anticasta, assedio ai papponi di Stato, con le figure di Napolitano, Calderoli, Fini e Bersani, con l'Italia a forma di pizza, insomma con tutti questi politici che se la mangiano. Assedio ai papponi di Stato. Lo sai cosa fa? Invece di mettersi a ridere, invece di fare delle considerazioni su quello che c'è scritto, apre un'inchiesta per vilipendio al capo dello Stato contro Belpietro. Addirittura. Sì, questo succede. Proprio leggendo i giornali, lui stesso l'ha raccontato. Non è tanto l'articolo, è l'insieme di vignetta e titolo a essere offensivi e non l'articolo a firma dello stesso Belpietro. Ha fatto partire subito la denuncia, subito. Si è andato lì. Abbiamo già un ospite collegato. Prima di chiamarlo in causa. Ma sai che bisogna fare su questa cosa qui della casta, bisogna fare qualcosa, però basta. Fermo, dopo. Scrivere libri. Dopo l'assurda proposta di Calderoli che la vuole buttare in caciara, presentando una riforma, questo lo dico io naturalmente, una mia considerazione se non fosse chiaro, pacatissima, perché secondo me è una buffonata, invece di agire subito, immediatamente, affida tutto ad una riforma costituzionale. No. Quando la si vuole buttare in caciara, di solito si propongono appunto riforme impossibili, riforme commissioni oppure facciamo una bella riformina costituzionale, come se fosse facile farlo. No, e allora dice: paghiamo in base al lavoro, dimezziamo i parlamentari. Ma come si fa? dimezziamo il numero dei parlamentari, dimezziamo il tempo per approvare una legge, rendiamo il Parlamento più funzionante, soprattutto un Parlamento che lavora e viene pagato solo in funzione del lavoro che svolge. Ma io dico, perché non l'avete fatto subito? È vero, l'avevate già fatto prima, poi il referendum è stato bocciato. Ma se è così urgente, il primo giorno della legislatura, presentatela questa riforma, presentatela! Ma io non ne posso più di sentire queste parole. Non ne posso più, la riforma costituzionale, la riforma del paese, non servono a niente. Se siete così convinti, e dovevate essere convinti nel 2008, presentatela subito, il primo giorno in aula! Divento pazzo. Ora monta la protesta, capito? Un'ultima cosa. Certo, bravo. Monta la protesta, che secondo me è la solita protesta. In realtà la casta sono gli italiani, questa è la mia teoria. La casta sono tutti gli italiani. Ognuno è così. Si ribellano gli avvocati perché non vogliono l'abolizione dell'ordine dei giornalisti, si ribellerebbero i giornalisti se fosse abolito l'ordine dei giornalisti e così via. Andiamo a Pionati, il quale dice: oggi il clima è quello da ghigliottina in piazza per i politici. Se ci si illude che dando addosso alla politica in maniera generalizzata si ottengono dei risultati validi per tutti, si fa un errore clamoroso. Se no mettiamo le ghigliottine in piazza, decapitiamo i parlamentari, non c'è problema. Io mi dimetto, penso, un giorno prima come tutti per evitare di perdere la testa, decapitato. Dice. Ma non risolviamo il problema, perché qui siamo nella fase della pura demagogia, dell'eccitazione. Sappi che tutti i grandi detective hanno una cosa in comune, e sai qual è? L'istinto. Quella rara abilità di capire al volo senza doversi fermare. Finalmente tra noi l'ispettore Clouseau della politica italiana. È uguale, tu lo sai, Parenzo, che hai navigato per anni nella politica milanese, lo sai, no? È uguale, identico. Non so di chi parli. Come Ma come non sai di chi parli? Identico all'ispettore Clouseau. Chi è il politico italiano identico all'ispettore Clouseau? Identico, sì, uguale. A Peter Sellers, fisicamente. Sì, a Peter Sellers, fisicamente uguale, identico, spaccato. L'avvocato Taormina è uguale. No, un po', però no, ce n'è un altro, però non lo sai, io lo so invece, lo so. Il presidente della provincia di Milano, Guido Podestà, buonasera. No! Sì, buonasera. Sì. Ma è vero o no? Signor Podestà, è vero o no che lei ha una vaga rassomiglianza con l'ispettore Clouseau, con Peter Sellers? Purtroppo con 20 o 30 kg di più. Ma come 20 o 30, che non è che fosse un mingherlino? No, Clouseau era magro. Beh, sì. Comunque una certa similitudine, almeno mia moglie me l'ha sempre detto, cioè non lo sapevo, comunque era molto simpatico. Sua moglie che le dice su questo? Che fosse simpatico, non c'è dubbio. L'unica cosa è la differenza, insisto, sono 20-30 kg, ci stanno tutti purtroppo. Rispetto al Peter Sellers che conosciamo, no? Allora, baffi. Ma non ti aveva venuto in mente, Parenzo, questa cosa qua, tu che hai navigato nella politica milanese, mai? Mai, però l'accostamento è... Eppure sei fantasioso, eppure sei... Però immagino che tu non lo hai chiamato di domanda. Hai ragione, nei giorni scorsi cosa è successo? Ringraziamo Podestà in qualche modo di essere qui e di rispondere alle nostre intemerate, no? dei giorni scorsi. Cosa abbiamo detto? Ripescando un vecchio articolo del Sole, vecchio, insomma, un articolo del Serudio del Sole 24 Ore, che aveva come titolo, devo dire sobrio in questo caso, sobrio ironicamente, la super auto del presidente. Cioè, all'interno del rinnovo del parco auto, che pure è stato diminuito, leggo, della provincia di Milano, il presidente si sarebbe riservato un'auto particolare per lui, del valore di 120.000 euro, un Audi A8. È vero o no, Presidente? Io ho sentito l'ultimo pezzetto della vostra trasmissione l'altra sera, sì, e ho anche cercato di mettermi in collegamento, poi come sapete non ci siamo riusciti. Io ho solo sentito la parte in cui, con lo sfottò che voi usate, sì, c'era il discorso: ha modificato il tettuccio per mettere il tettuccio, lampeggiante. Sì. Ah, non è stato modificato nessun tettuccio, lo dico tranquillamente. Dunque, la prima cosa: prima tettuccio cosa, non modificato, però sono stati modificati i lampeggianti. I lampeggianti sono gli stessi che aveva il mio predecessore Penati davanti e dietro. Non cambia niente. Che ma cosa serve il lampeggiante, Presidente? Scusi, il presidente della provincia. Sì. Il lampeggiante a cosa serve, Presidente? No, lo dico davvero. Perdoni, io li ho trovati e ce li ho. Poi le devo dire sinceramente che perlomeno nella realtà, un po' nella psicologia del milanese, poi non so in altre parti, meno si usano ste cose, meglio stiamo. Oh, quello in assoluto, in assoluto. Così spero che lei li usi con i lampeggianti, con come dire, no? Parsimonia, con grande parsimonia. Con ma grande a che serve il lampeggiante? A che serve il lampeggiante? Come al presidente della provincia, come al sindaco della città. Io credo che per i ministri, eccetera, il lampeggiante può servire in certi casi forse per diciamo accelerare. Questo è un no, po'. Ma no, no, no, non forse. Sì. Mi permetta. Nello stesso modo come le corsie riservate ad alcune categorie consentono di avere un passaggio più veloce. E quali sarebbero le corsie dedicate alle categorie, scusi? Cioè quelle dove lei sa che corrono gli autobus, i taxi e quelle macchine che hanno dei contrassegni che gli consente di, ma questo è il sindaco, questo, no, ma questo è non il c'è presidente dubbio. Del tribunale, questo è il direttore del vostro giornale, no? Insomma, ma adesso non lo so se avrà il permesso per andare nelle. Ma quella è una cosa diversa, l'accelerare. Però perdoni, andiamo un po' sul tema, se mi permette. Sì, abbiamo il traffico, un secondo, poi torno con lei. Il traffico, giusto appunto, poi torno con lei, perché la questione in realtà non è lampeggiante o non lampeggiante, ognuno lo usa e dovrebbe usarlo con grande parsimonia, come lei ci dice, spero che lei lo faccia. Naturalmente un controllo da questo punto di vista è impossibile, anche se molti ascoltatori ci segnalano, questo lo dico in generale, non con riferimento a Podestà, naturalmente, che spesso questi lampeggianti e le accelerazioni, la velocità è eccessiva per quello che riguarda le auto blu. Il punto è un altro: perché lei si è scelto un'auto particolare rispetto al parco macchine che ha la provincia, gli assessori o non so chi le utilizza? E ho sottolineato prima, nonostante il fatto che comunque dai dati che ci risultano la provincia di Milano in questi anni, quando c'è stato Podestà, il parco macchine lo ha ridotto a tra poco. In Parlamento sono più di 600. Bene, allora, come va al lavoro Parenzo, il sindaco Bloomberg? Va con la metropolitana. Il primo cittadino dovrebbe usare, è un bellissimo esempio vedere i nostri amministratori, almeno locali, che usano il servizio pubblico. Podestà, perché non bastava la Ford Focus? Perché non bastavano le Ford Focus che lei ha fatto ordinare? Allora, io innanzitutto vorrei dire che la provincia ha ridotto le auto, non quelle diciamo della polizia provinciale, delle guardie ecologiche, ma le auto di servizio. E questo l'abbiamo detto. Da 170 auto a circa 70 auto. E questo è buono. Poi noi abbiamo preso un servizio, cioè un noleggio a lungo termine che ricomprende cambio dei pneumatici, manutenzione, sostituzione se l'auto si rompe, il bollo, l'assicurazione, tutto. Sì. Quindi no, ma quando si paragonano valori per i due periodi, cioè chi c'è stato prima e quello che... No, a me non mi interessa chi c'è stato prima. Perdoni, io... Ma lei ha già detto che ha diminuito... Se mi permette, spiego, se lei ha la cortesia... Sì, prego, io ascolto, però... Allora, io vedo che ci sono, prima di tutto noi abbiamo preso un'auto più ecologica Euro 5 e purtroppo le auto più ecologiche hanno anche un costo superiore. E in secondo luogo, se paragono quelle che sono state le spese di acquisto, come anticipazione oltretutto di spesa, manutenzione e tutte le altre voci, noi siamo grosso modo nella stessa linea di spesa. Benissimo, no? Infatti questo qua non è in discussione, allora, il fatto che lei abbia risparmiato rispetto a prima. Il problema è un altro: perché lei ha preso un'auto diversa, in particolare un Audi A8 rispetto alle altre? Ma perché secondo lei un Audi A8 è diversa rispetto a una Mercedes piuttosto che a una... Ma che c'entra la Mercedes? Ma perché non ha preso una Fiat Panda, ad esempio? Una Panda. A me, guardi, italiana, peraltro, l'Audi non è neanche italiana. Ma intanto il fatto di dire italiana, io credo che posso prendere la macchina italiana piuttosto che un'altra macchina, mi sembra, perdoni, anche abbastanza banale tutto perché questo. Banale? Perché banale, credo che ci sia la possibilità all'interno dell'Unione Europea di scegliere prodotti che sono prodotti assolutamente di marca europea. Dunque a lei non importa ordinare un'auto italiana rispetto a un'auto straniera? Perdoni, cioè dica che sono meglio quelle altre, che preferisce quelle altre. Sicuramente, io guardi, ho sempre avuto un Audi A8, ce n'ho una che ha la bellezza di quasi 350.000 3.000 km. E perché non usa la sua? Ha un costo di manutenzione completamente diverso rispetto ad esempio a macchine che magari costano meno ma hanno dei costi di manutenzione molto più elevata. Credo che poi nella comparazione tra un servizio e un altro uno deve comparare i costi reali, se no sai che cosa facciamo? Facciamo come sempre un fatto di disinformazione. No, ma le faccio io una domanda, cioè, scusi un attimo, chiariamo questa cosa delle auto italiane. Guardi, delle macchine italiane, delle macchine non italiane, in questo momento non sto parlando di questo, sto parlando della Panda, 7.000 euro. Però mi scusi, benissimo, la Panda non è questo il fatto. No, ma io vorrei essere serio su questo, le dico, ma sinceramente un qualunque responsabile di una struttura ha una macchina che risponde a delle sue esigenze, no? Allora credo che se ci chiedessimo ad esempio qual è la macchina che usa il direttore di Confindustria, potremmo di Radio 24, che macchina usa il direttore del quello la paga l'azienda, che paragone è? Quello che è il costo, no, di un servizio completo che ricomprende tutte le voci: manutenzione, cambio dei pneumatici. Ma quello è chiaro, il noleggio. Nessuno dice che il noleggio non è conveniente. Io non sto dicendo che non è conveniente il noleggio. Proprio perché la comparazione, diciamo, di un servizio rispetto a un altro è quello che ci deve condurre. No, Podestà, scusi un attimo, ma io non mi sto fermando, io le ho detto che lei ha risparmiato, l'ho detto all'inizio, lei ha risparmiato. E allora, se lei mi sta ho risparmiato, a lei non piace l'Audi, dovevo prendere... No, non è solo quello. Understatement, una bella macchina italiana, magari una Fiat Panda che costa anche poco ed è competitiva, il presidente della provincia può girare la provincia con una bella Fiat Panda. Ma può benissimo farlo, però... Veda, a lei piaceva l'Audi 8 perché ce l'ha anche a casa, questa è la realtà. Allora, io credo che siano macchine che garantiscono la sicurezza, più della Fiat, un costo, secondo me, visto che l'ho comprata anche a suo tempo, perdoni, le dico di sì, ma questo fatto non vuol dire che io disprezzi una macchina rispetto a un'altra, dico soltanto che comparo quello che sono dei costi di esercizio totali. Perché se si ferma a fare il ragionamento, dobbiamo prendere soltanto macchine italiane, allora... Ma anche le altre macchine non sono italiane, anche le Ford le ha ordinato. Anche perché oggi, perdoni, il capitale di una multinazionale sa Dio che cos'è, dove vengono fabbricate sa Dio che cos'è, e allora se ci fermiamo al discorso di macchine italiane, dice che la Fiat non è manco allora più italiana, io le dico, no? Lei ha su un orologio italiano o un orologio svizzero? No, ma scusi, ma io non lei faccio il presidente della provincia di Milano, abbia pazienza. E allora, perdoni, ma la provincia di Milano è... Io vorrei però dire una cosa che credo che sia molto importante. Allora, cerchiamo una volta per sempre di smetterla, di pensare che le persone che fanno politica, fanno pubblica amministrazione, siano persone senza valore, senza mestiere. Ma chi l'ha detto? Ma chi lo sostiene? E allora, esattamente come io dico, il responsabile di un giornale come il suo, di una radio come la sua, che glielo paga il giornale. Ma la paga l'azienda, Podestà. La paga l'azienda, ma il lavoro che io faccio, perdoni, il lavoro che io faccio è un lavoro che mi tiene qua la mia scrivania 7 giorni su 7. Ma nessuno lo mette in dubbio. Allora, vuol dire che verrò valutato sul risultato, mi permetta, però valutato sul risultato complessivo della mia azione. Se lei si ferma invece a esaminare il picco, dice: io riconosco che lei ha risparmiato, io riconosco che è così, le sto dicendo che è così. Allora, siccome l'ho già detto all'inizio, lei non è riuscito ancora a spiegarmi, Presidente Podestà, lei non è riuscito ancora a spiegarmi una cosa, io ho detto, lei ha risparmiato rispetto a prima, ha diminuito il parco macchine ufficiali della provincia. Dopodiché, nelle macchine appena acquistate dal comune non ci sono macchine italiane, lei ha detto che non importa, e va bene, è una spiegazione. Mi permetta, quando lei fa una gara d'appalto, lei non dice io voglio una certa macchina, lei specifica delle prestazioni di servizio, e quella che è la miglior offerta dal punto di vista economico-prestazionale, lei è tenuto per legge quella. Uno può fare anche delle scelte, dice voglio puntare sulla Fiat, eccetera. In base alle leggi europee, sapere, lei vabbè, non può d'accordo. Dire io voglio un prodotto la migliore italiano, offerta eh? Ci è venuta lei lo sa che non può farlo. D'accordo, la migliore offerta la ci è venuta solo con la Volkswagen, non ho capito. Quello la è un altro, quello è un altro discorso. Allora, però la seconda cosa è questa: perché lei ha scelto una macchina diversa rispetto alle altre che ha ordinato, le Ford Focus per tutti gli altri? Perché il presidente? Perché sono il presidente, lei ha detto perfettamente. Ma questo, mi scusi, non è una cosa di cui io mi vergogno. No, ma non si deve vergognare. Credo, ma chi l'ha detto che si deve vergognare? Io credo con grande serenità, siccome io non sono un nominato, io sono uno che ha giocato la propria faccia in una elezione. Ma che c'entra si è fatto, con la macchina? Mi permette di completare un pensiero? Sì, ma sì. Non cosa c'entra con la macchina? Ma mi permette, carissimo. Scusami, Bloomberg, ma che coglione Bloomberg? A me Bloomberg può andare in bicicletta, io francamente non gliene credo, frega niente a lei. Ma, voglio diciamo dire, ognuno Bloomberg è libero, coglione, è libero di fare qualcosa, però se lei vuole Bloomberg, mi fa una cortesia, voti Bloomberg, lei può presentare. Beh, è un po' difficile. Ma si presenti lei come sindaco, come presidente della provincia, ma perché no. Non lo fa? Lei ha tutto il diritto, lei ha tutto il diritto di presentarsi, di farsi eleggere. Cioè lei voleva, scusi un po' d'està, lei voleva una gamma superiore rispetto agli altri. Perché mi continua a dire Bloomberg? Lei voleva una gamma superiore rispetto agli altri, no. Perché è il presidente, allora, questa è la realtà. Esattamente. Ma non si vergogni, è così. Perdoni, esattamente come ho trovato nella precedente amministrazione una gamma diversa del presidente rispetto agli assessori. Esattamente nello Bene. Stesso modo. Quella mi dice, guardi, decidiamo che andiamo tutti in panda. A me piace un sacco. E allora perché non lo fa? Ma per carità di Dio, perché abbiamo ritenuto che questa macchina fosse adatta alla funzione. Tutto là. Abbiamo fatto, una gara, un bando. Quello che ha risposto è stata la più conveniente in base alle prestazioni, ma non abbiamo scelto noi la marca, è questo che vorrei dirle. Anche perché lei non può, in base alle leggi europee, dire io voglio una macchina italiana. Ho capito, ho capito. Bene, grazie. Pubblicità. Eccoci di nuovo presenti qui, caro Parenzo. Come sempre, dalle 18.30 alle 21, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, 800-24-0024. Mi piaci così, mi piaci. Borghezio è tornato a parlare dicendo che il cappio, ti ricordi il famoso cappio della... Come dimenticarlo? Certo, Leoni Orsenigo, se non ricordo male. Fu il nome... una provocazione, dice, profetica. È un errore solamente il fatto di averlo semplicemente agitato, cioè bisognava in realtà utilizzarlo. Il nostro sobrio. Borghezio è sempre sobrio come al solito. Pacato a Bruxelles, l'ha detto a Bruxelles, addirittura ha fatto un comunicato per dirci che il cappio bisognava in realtà usarlo. Ecco. I titoli del TG3 presentati dopo, sapete, gli exploit della signora Polanco da Sabina Began. E adesso i titoli del TG3 di Bianca Belenguer. Maggioranza battuta ancora sui rifiuti, la Lega annuncia che voterà contro il provvedimento mentre a Napoli riesplode la protesta. Tensione per il voto di domani sull'arresto di Papa, Scilipoti dei responsabili chiederà il voto segreto, Bersani vadano a casa e subito elezioni. L'autodifesa di Murdoch alla Camera dei Comuni, non penso a dimettermi, un uomo lo aggredisce lanciandogli una torta, depone anche Rebecca Brooks. Le borse europee recuperano dopo il terremoto di ieri, attesa per il vertice di giovedì sulla Grecia, famiglia cristiana, la manovra, macelleria sociale. Il ricordo della morte del giudice Borsellino, fini partiti devono fare opera di pulizia al loro interno, Napolitano opporsi a ogni collusione. In carcere Salvatore Parolisi per l'omicidio di Melania, l'uomo si dichiara innocente per gli inquirenti, è ucciso ed è tornato a infierire sul cadavere. 10 anni fa la violenza al G8 di Genova e la morte di Carlo Giuliani, la città ricorda con dibattiti, concerti e una grande manifestazione. C'è grande confusione, caro Parenzo, per quello che accadrà domani. Il Partito Democratico ha fatto sapere che è favorevole alla votazione per l'arresto di Papa alla Camera, ma anche all'arresto di Tedesco al Senato, il senatore tedesco, il mitico senatore tedesco, la cui richiesta di arresto, in realtà sono arresti domiciliari, è pendente al Senato da diversi mesi. Hanno fatto la furbata di calendarizzare la cosa nello stesso giorno, stessa ora. Sì, c'è il rischio che qualcuno possa intravedere uno scambio, no? Io ti salvo Papa e tu mi salvi Tedesco, e per questo esatto. Bersani oggi ha fatto questa dichiarazione sostenendo che il Partito Democratico è favorevole all'arresto di tutte e due. Poi vedremo naturalmente se ci sarà il voto segreto, quello che succederà, se ci saranno voti in più rispetto a quelli della maggioranza, magari per, tra virgolette, salvare i due. Crosetto ci racconta che il voto su Papa, il mitico sottosegretario alla difesa Crosetto, che il voto su Papa, quello che sostiene che Tremonti è tirchio, il voto su Papa è influenzato dall'ondata dell'antipolitica, e su questo non c'è dubbio, perché in un altro momento Papa sarebbe stato tranquillamente messo in salvo dalla Camera. In questo momento sa cosa finirà? Che probabilmente la spinta della piazza farà dare al Parlamento un voto che in un'altra epoca, in un altro momento, non sarebbe contro. Sallusti, il mitico Sallusti. Se la Lega fa arrestare Papa, sarebbe l'inizio della fine. Eccolo, eccolo, ci mancava Sandrino. Dov'è il reato? Dov'è il reato? Se la Lega dovesse cadere in questo tranello di accontentare il suo elettorato facendo arrestare i parlamentari, beh, credo che siamo all'inizio della fine non soltanto di questo sistema, ma anche della stessa Lega. Ma adesso la fine del sistema addirittura. È il contrario, comunque. No. È esattamente il contrario di quello che sostiene il mio amico grande direttore Sallusti, perché la Lega è un ritorno alle origini. Non so se l'avete capito, sturatevi le orecchie, amici della Zanzara, la Lega sta tornando alle origini, al 92, 93. E sentiamo 93. Da Radio Padania secessione, secessione, sentiamo da Radio Padania le intemerate contro i compensi dei parlamentari. Questo è il clima oggi, questa è la Lega che mi piace. No, questa. A me non piace per niente, comunque questa è la Lega, forza, forza. A proposito del programma di Calderoli, basta aver sentito quello che, come ha reagito D'Alema, ma anche i nostri compagni di viaggio, i patrioti, hanno mica, Cicchito non ha mica reagito tanto bene, mi sembra. I diritti dei pensionati si possono toccare, i diritti dei parlamentari non si devono toccare? Ma la Lega cosa sta a fare per cambiare sta solfa? Rimane sempre la solita domanda. Possiamo seriamente credere che i parlamentari voteranno una legge che li autocensura, li penalizza? Francamente io credo di no. Eccoci qui, 800 24 00 24. Solo per ricordare il Paolo Guzzanti di ieri, che dice: tirerei una scarpa in testa a Berlusconi perché presenta il libro di Scilipoti. Berlusconi non trascura la più piccola delle occasioni per farsi del male, farci del male, intendendo tutto il quel popolo disgraziato liberale che cerca annaspando di radunarsi e di fare ancora qualcosa e si becca delle scilipotate in testa. Devo dire che gli tirerei una scarpa in testa quando fa queste cose, non è escluso che una volta o l'altra lo faccia. Posizione della Lega ufficiale da qualche minuto: sia all'arresto ma libertà di coscienza. Vabbè, vabbè, è una farsa, è diventata. È una farsa, è una farsa, diciamo la verità, una farsa totale. È Carroccio farsa. Non chiederà il voto segreto, sia all'arresto ma libertà di sintomo coscienza. Sintomo della spaccatura tra i dirigenti, tra vabbè, i maroniani. Vabbè, vabbè, Vito da Forlì, sentiamo Vito da Forlì. No, chi è Vito? Chi è un Vito? Ascoltatore. Ah, bene, bravo. Signor Vito, buonasera. Buonasera, Fruttani. Dica. Ormai forse non ha più senso il mio intervento, perché era partito circa 40 minuti fa. Non si preoccupi, parli Vito, parli. Ha tutto senso, tutto ha senso. Diceva che la casta siamo noi italiani. Sì, la casta siamo noi italiani, è vero, non è così. Esattamente così. Come non è così? È così, no. È così. Tra le altre cose... L'Italia è piena di caste, perché le caste ci proteggono, ed è per questo che andiamo a fondo. È stato simpatico con l'ultima battuta che ha fatto nei confronti del governo, perché ha riconosciuto che il governo è una farsa, proprio in funzione anche... No, io non ho detto che il governo è una farsa, abbia pazienza. No, abbia pazienza Vito, lei ha capito male, non ho detto che il governo è una farsa, non è che io le posso essere simpatico solamente quando dico che il governo è una farsa, io ho detto che è una farsa questa storia, arresto sì, arresto no, delle posizioni del balletto della Lega. Chi lo sta facendo questo discorso? La Lega? La Lega, certo, la Lega, la Lega. E la Lega chi è? La Lega fa parte del governo, è un pezzo della maggioranza, ho capito. Fa parte della maggioranza, per cui sono una farsa, questa è la farsa reale. Vabbè, adesso lei allarga il discorso a tutti. Io ho detto che il balletto della Lega è un po' ridicolo e soprattutto dimostra il fatto che, caro Parenzo, Bossi non ha ancora non ha più quella presa, no? Sul... No. Vabbè, Eleuterio, provincia di Ancona, buonasera. Bel nome Eleuterio. Eleuterio, te lo ricordi chi era Eleuterio Rea, ex capo dei vigili di Milano, Eleuterio Re, amico di Pietro. Vabbè, Eleuterio, dica. Che nome è Eleuterio, però? No. Da dove deriva? Eleuterio, da dove deriva Eleuterio? Deriva da mia madre e mio padre, Eleuterio. Non so ma no, signor Eleuterio. Ma l'origine del nome, non ho mai approfondito questo aspetto. Lo faccia, però. Lo faccia. Vabbè, comunque, dica. È vero. Buonasera, io vorrei dire qualcosa. Ho sentito all'inizio della trasmissione la chiacchierata che avete fatto con un po' di... Vabbè, Eleuterio, lei è lo stesso personaggio che chiama sempre con un numero diverso, stavolta con un nome diverso. Com'è che gli è venuto in mente Eleuterio? Mi spieghi? Stavolta come le è venuto fuori il nome Eleuterio? Mi spieghi? Perché non esiste persona che non sa da dove arriva il proprio nome. Lo abbiamo tanato. Ti abbiamo tanato, Eleuterio. Ti abbiamo tanato. Eleuterio, confessi. Parenzo a casa. Eccolo qua. No, non ho capito che mi state confondendo. Sì, l'abbiamo tanata. Questa è la realtà. Lei vuole fare il furbo. Noi la taniamo. Quanti telefonini ha lei? Quanti numeri ha di telefonino? Io c'ho un telefonino. No, vabbè, Eleuterio, no. Su. Eleuterio. Quanti numeri hai? L'altra volta ha confessato. Due telefonini? Ma quando? Ma l'altra volta ha detto che ne ha 6-7. No, due telefonini e 5 SIM, era uno di lei. Ah, 5 SIM. Vabbè, ci sentiamo tra poco dopo la borsa, un attimo. Non voglio che succedano più cose di questo tipo, caro Parenzo. Cioè, voglio ricordare agli ascoltatori, con quello che sentiremo fra poco, che venerdì scorso, durante un tragitto percorso dal signor Parenzo sul torpedone tra Roma e Siena, lo voglio ricordare a tutti quelli... Una cosa gravissima è accaduta. A tutti quelli che ci stanno ascoltando, lo voglio ricordare perché un lavoratore indefesso come David Parenzo non può essere sottoposto ad una sorta di assedio che solo per miracolo è riuscito a superare, soprattutto perché si è rifugiato dalle intemperanze di un signore che evidentemente ha scambiato l'autobus per una sorta di ring. È vero, il telefono può dare fastidio, ma col telefono si lavora. C'è chi lavora alla scrivania, c'è chi lavora in silenzio, c'è chi lavora con la parola, e allora bisogna rispettare anche chi lavora con la parola. Bravo, Cruciani. Per chi non l'avesse ascoltato fino adesso, l'assedio Parenzo nell'autobus Roma-Siena, torpedone Roma-Siena di venerdì sera, secondo noi naturalmente. C'è una ribellione nel pullman nei miei confronti. E la curriera che la basso è giovane. È arrabbiatissimo. E l'autista che n'ha proprio. Ti voglio menare. E la sciura con ti bei tet. Poi gli buttano giù. E la duneta che ha sbagliato il biglietto. No, ma c'è qui un cartello che è vietato telefonare. No, ma non c'è neanche scritto qui, possiamo rompere i coglioni. Tu ci sarà curriera. Parenzo è su un autobus di linea, adesso lo comunichiamo, sta lavorando perché sta parlando al telefono, c'è il diritto di parlare al telefono, e i suoi compagni di viaggio si stanno ribellando. Ti voglio menare, ma che dici? E i passeggeri, arrivato un desu. Parenzo, com'è la situazione? Sono sotto controllo. Da parte di chi? Chi è che ti controlla? Sono pedinato, che sono seduto su una stessa sedia del pullman e sono accartocciato vicino al vetro, quasi strusciato per terra. Come un verme. Tu ci sono la corriera. Prendi in mano la situazione adesso. Prendi in mano la situazione. Quindi buttano giù. Non so se posso continuare. Aiuto. è un po' come fossi un, un terrorista di Al Qaeda messo a Guantanamo. Questo è un po' come mi sento in questo momento, diciamo, un po' di ostilità nei miei confronti, un po' come Berlusconi con i magistrati, mi sento uguale, quindi buttano giù sempre una solita tiritera. Ma non c'è neanche il tu, possiamo rompere i coglioni. Tu ci sei la corriera. Questo è accaduto e che non si ripeta mai più. E che non si ripeta mai più. È gravissimo quello che è successo. È gravissimo. Abbiamo aperto anche un'indagine. Abbiamo denunziato la procura. Due procure, quella di Roma e quella di Siena, perché l'autobus era in mezzo. E io anche a quella di Trani. Beh, che c'entra Trani, scusa? Ho militato tutte le procure, anche quella di Trani, già che indaga sul caso Vinzolini e deve indagare anche su questo caso gravissimo, gravissimo che è avvenuto. Per rintracciare il pullman, credo. Esatto, chiedo il sequestro immediato, no, del pullman. Sequestro immediato del pullman, poi ex post mi sembra piuttosto complicato. Comunque, il problema è che bisogna rintracciare il signore che ha detto, sì, non c'è scritto vi è dato parlare, ma nemmeno rompere i coglioni. Quella è una frase, comunque devo dare atto a questo signore che ha detto una frase che rimarrà nella storia della radio. Sì, a questo, di questo bisogna dare atto al signore. Eleuterio, allora, caro Eleuterio, che non è Eleuterio, ma il solito rompiscatole che ci chiama, in senso buono, che ci chiama da non so dove, credo dalla Puglia. Allora, dica pure. Sì, buonasera. Sì, effettivamente può essere come dice lei, Cruciani, può essere. No, può essere, è così. No, può essere, è così, vabbè, ma... Non ci coglioni, però almeno... Su, Eleuterio, dica quello che deve dire. Dai, voglio dire, la sigla della trasmissione è come passare a casa, come passare al bar... Vabbè, ho capito, ma se lei chiami una volta al mese, e basta. L'ultima volta è accaduto il 15 giugno. Ma perché allora si fa chiamare Eleuterio dalla provincia di Ancona invece? A lei la settimana scorsa ha suggerito a un ascoltatore di Forbice, a uno, diciamo, un contestatore di Forbice, di spacciarsi con un altro nome, con un numero diverso e di infiltrarsi nella sua trasmissione. Sì, ma per un motivo diverso, per un motivo diverso. Era un radioascoltatore di Salerno, lo ricordo bene. Vabbè, allora che deve dire? Sì, no, volevo solo dire che mentre parlavate di Podestà che ha acquistato, diciamo, ha noleggiato un'auto straniera, non italiana, un Audi, sì, mi veniva in mente che ho visto moltissime volte il nostro Presidente del Consiglio viaggiare con un Audi, no? Oppure il Presidente del Consiglio che trasforma Villa Certosa in sede del governo, o Villa o Arcole come sede di governo, quindi per venire incontro alle sue comodità ci siamo dovuti sobbarcare come comunità, collettività, delle spese eccessive, no? Ma adesso che c'entra questo? Berlusconi i suoi trasporti, le sue cose li paga di tasca propria, su, sarà non forse... Non credo, guardi che quando Berlusconi trasforma... Ma scusi, Villa ma stiamo parlando adesso, siamo partiti da un piccolo caso, adesso lei lo vuole allargare dicendo che cosa? Dicendo che non si può contestare a Podestà questa cosa e poi far passare poi... Ma chi fa passare niente? Chi fa passare nulla? Parenzo ha detto che il politico deve dare l'esempio, gli è scappata questa frase, ecco, allora incomincia a dare l'esempio il nostro Presidente del Consiglio. Vabbè, d'accordo. Lasciando l'Audi e comprando un'auto italiana, una Panda forse. Ma infatti secondo me il Presidente del Consiglio non dovrebbe avere un'auto che non sia italiana, è vero pure che come sapete la Fiat è all'interno di un processo di ristrutturazione che magari la trasformerà in qualcos'altro, ma il centro è ancora a Torino, Italia, è un'auto italiana. Il è curioso di chi sta intorno al Presidente del Consiglio, veramente. Ma io ho detto che devono dare l'esempio. Eleuterio, che cosa sta dicendo ancora? Non ho capito. Sto dicendo che è curioso che chi sta accanto al Premier, no? Chi conduce una vita molto stretta, l'altra settimana sentivo, non ricordo bene chi era, diceva che Berlusconi è un dono di Dio. Io lo considero un flagello di Dio. Ma Eleuterio, era chiaro che lei considerava Cruciani, in questo modo. Ma Cruciani, chi ha avuto rapporti stretti con Berlusconi è caduto in disgrazia, lei lo sa benissimo. Vabbè. Abbiamo avuto amici fraterni e anche fratelli condannati al posto suo, forse, non lo Ma di chi sta parlando, scusi? Ma cosa dice? Cosa dico? Parla in codice, sembra un messaggio per Bisignani. Ma amici, guardi, fratelli, condannati. Guarda, sapete benissimo di cosa sto parlando. Previti, Dell'Utri, Verruti, Mills, Paolo Berlusconi e tutta questa gente che ha avuto rapporti. Paolo Berlusconi non mi sembra in disgrazia. La ringrazio. Eleuterio, non mi sembra in disgrazia né in rotta col fratello. 800 24 00 24. Oggi, come sapete, è successa una cosa clamorosa a Westminster con Murdoch messo alle strette in audizione, addirittura tentativo di aggressione, con le sue televisioni, come giustamente nota il Fatto Quotidiano, che trasmettono tutto senza censura. Grandissimo. capito? C'è la televisione di Murdoch, come dici tu, che trasmettono tutto senza censura. Una scena molto inedita, devo dire, nel nostro paese, come leggo sul fattoquotidiano.it, ottimamente diretto da Peter Gomez. Bene, andiamo a sentire Francesco dalla provincia di Firenze. Francesco? Sì, dica. Buonasera. No, mi ha in parte anticipato quando ha detto al signore precedentemente che siamo tutti parte di una casta, però visto che ha... Ma io non dico che lei fa parte di una casta, no, io dico che gli italiani spesso protestano contro la casta della politica, poi quando bisogna andare a grattare qualche privilegio che ci riguarda, ci racchiudiamo, infatti, ci chiudiamo, no, a testuggine. La mia domanda era come si sentiva lei in quanto a sua volta parte di una casta, perché i giornalisti, i giornali, in questi giorni in cui parliamo di limare i costi da tutte le parti, sopravvivono grazie alle sovvenzioni pubbliche che mi risulta no. Allora, specifichiamo una cosa: ci sono dei giornali che non camperebbero senza sovvenzioni pubbliche, ci sono dei giornali che prendono anche quelli che camperebbero ugualmente. In parte, in minima parte. Contributi all'editoria, è una cosa diversa. È una cosa un po' diversa. Comunque, in generale, bisogna decidere quello che lo Stato deve fare, cioè se lo Stato deve... Ma lei si sente se lo Stato... parte in no. questo caso di un... No. No. Le dico sinceramente di no perché non lavoro in un giornale o in un gruppo editoriale giornalista. Il cui... Però... No, in quanto giornalista, francamente, non mi sento parte di una casta. Io abolirei l'ordine dei giornalisti, lo dico da anni, per cui... Cioè, se lo abolissero domani, per me non cambierebbe assolutamente nulla. Però, detto questo, finché c'è, che devo fare? Siccome si parla sempre degli altri, ogni tanto si può guardare. Ma Francesco, con noi sfonda una porta aperta. Abbia pazienza, con noi sfonda una porta aperta. Se lei ha sentito nei giorni scorsi le trasmissioni che abbiamo fatto sugli avvocati, eccetera. Va bene, Francesco da Caserta, buonasera. Buonasera. Dica. Senta Giuseppe, io ho avuto l'onore finalmente di parlare con lei. Le volevo dire una cosa. Perché così? Ma sempre semplicemente una cosa, no? Ma come mai lei gioca così tanto su le baggianate che fa Borghezio dicendo il cappio? Ma lei... Perché mi divertono, perché mi mettono di buon umore. Dico, mi mettono di buon umore. Le posso dire una cosa? Da radioascoltatore mi indignano. Da quello che rappresenta Borghezio. Lo so, Francesco, lei si indigna, io invece ci rido sopra, mi mettono di buon umore, in alcuni casi mi fanno pensare. Gestisco un network nazionale, pazienza, non faccio mica il professore, abbia pazienza, non faccio mica l'educatore. No, ma perché dovrebbero, praticamente dovrebbero usare le tecnologie così forti con chi il cappio andrebbe usato? Vorrebbe impiccare i politici papponi, vorrebbe impiccare i politici, la casta, di cui è però, questo lo dico con tutto il rispetto, con tutto il rispetto per l'onorevole Borghezio, di cui è però un rappresentante, perché comunque fa parte della politica anche lui da tanti anni, La famosa parabola di chi non abbia peccato scagli la prima pietra. Vabbè. Ce la dobbiamo ricordare poi. Ma ricordiamocela, per carità. Certo, è più facile per un cammello. Sì, sì. 30 secondi di pubblicità, torniamo subito. Caro Parenzo, la zanzara continua fino alle 21. Che fai? Te ne vai? Cosa hai cucinato? Te ne vai? No, dove devo andare? Sono qui alla 7 ad aspettare che inizi la nostra grande trasmissione in onda stasera. Sto aspettando il signor Telese che deve ancora arrivare. Anzi, come al solito. Se sta ascoltando la radio, Telese arriva perché tra un po' partiamo, Che ore sono? Sono le. Siamo qui sempre con la zanzara. Oggi, caro Parenzo, è il 19 di luglio, 19 luglio, e noi siamo sempre qui a combattere. Davide Parenzo in collegamento da Roma, in collegamento da non so dove perché non me l'hanno scritto, ma questo insomma è normale. Abbiamo Angela Tremonti, buonasera. Come sta? Benissimo, e sono nelle Dolomiti, nella zona del Cadore, la zona più povera delle Dolomiti ma più ricca di amore. Più povera? Ad Auronzo. Lozzo. Allora, patria dell'occhiale, Lozzo. Com'è che non è a Sondrio, dalle parti di Sondrio? È che io sono nata in Valtellina, vivo a Cantù e adesso sono a Lozzo di Cadore e venerdì inauguro un'installazione a Cortina, lì in Corsa Italia, e sono qui ad aspettare gli elettricisti e le sculture che poi andremo a montare venerdì sera, grande inaugurazione. Beh, hai capito, ma Parenzo, ma tu non sai, perché tu non sai, che cioè Angela Tremonti è un artista, nonché consigliere comunale a Cantù. Tu lo sapevi, dato che ti interessi molto di politica? Sì, io so, conosco anche il fratello, non il ministro, il fratello che è stato anche ospite mio tanto tempo fa, il farmacista Tremonti, insomma, no? Esatto, Pierluigi. Ecco. Sì. Ma quanti, quanti siete, in tre? Siamo in tre, io sono la più piccolina. Lei è la più piccola, non le chiedo l'età, naturalmente, il più grande chi è? Giulietto. Il più grande è Pierluigi. Ah, Pierluigi. Il farmacista. Poi c'è Giulio e poi ci sono io. Hai capito, ma da bambino era dispettoso Giulio o no? Ma certo, ma come tutti i bambini, come sono io, come penso sia stato anche lei. Mm. E cerchiamo ogni tanto di continuare a rimanere bambini, perché è importante rimanerlo per poter sorridere alla vita al giorno. Io so che Parenzo ti viene in mente una cosa, perché è incuriosito dal ma dai, no? Te lo ricordi? Ah sì, sì, è vero. Come anche da bambino, quando gli fregava i Lego, magari lei da piccola gli fregava i Lego, i Playmobil o il pallottoliere, no? Quello per fare i conti. E diceva, ma dai. Però devi ridare. Diceva così, no, o no? Non me lo ricordo, anche perché tutti e due abbiamo la R moscia. Devo dire che i Lego ai nostri tempi non c'erano. Parenzo, noi avevamo le costruzioni di legno, il meccano, le macchinine. E a cosa giocava Tremonti? Tremonti bambino, ad esempio, perché Tremonti politico sappiamo tutto. Beh, Tremonti... io e Giulio siamo praticamente gemelli, nel senso che abbiamo 15 mesi di differenza, quindi siamo cresciuti insieme. Beh, abbiamo giocato al pallone, abbiamo giocato agli indiani, ai cowboy, alle spade, a costruire meccano, abbiamo giocato a Monopoli, cosa che si fregava i soldi o no? Nel mio libro. Cosa? Al Monopoli si fregava i soldi o no? Al Monopoli no, vinceva spesso, però, perché è sempre stato molto attento e fortunato, più di me. Senta, qualcuno dice, intanto bisogna ricordare che Angela Tremonti ha scritto un libro per Bompiani, che è uscito nel mese di maggio, che si chiama La Valle degli Orsi, che è un libro biografia in cui ricorda tanti tante cose della famiglia anche. Voglio chiedere una cosa, ma nei giorni scorsi, proprio qui alla Zanzara, trasmissione che questo me lo hanno riferito, lei ascolta, facendosi spesso, spero, delle crasse risate. Sicuramente. Qualcuno ha ricordato, in particolare il sottosegretario della difesa Crosetto, a proposito della vicenda della casa di Milanese, eccetera, eccetera, che dice Crosetto, ma in fin dei conti poi non è così grave, perché il punto è uno solo, che Tremonti ha il braccino corto, cioè è un non po' è vero, tirchio. È generoso Giulio. No, ma essere generosi è una cosa, essere tirchio è un'altra però. No, allora Giulio non è né tirchio né generoso, portato all'estremo. È come me una persona parsimoniosa. Ah, ecco, questa è un'altra cosa. Secondo me è un concetto che dovrebbero avere un po' tutti i politici, perché so che Giulio, da parte di tanti politici e anche ministri, non è ben voluto, però io nel mio piccolo posso dire che essere eletti usando i soldi dei cittadini, perché si hanno a disposizione e quindi si utilizzano per farcisi delle campagne pubblicitarie, oppure per dare incarico o per fondare nuove istituzioni, associazioni eccetera, pensando di accaparrarsi il voto, è uno scambio di denaro e questo non va fatto. Hai capito, Parenzo? Deve vincere, perché ha il coraggio di dire quello che pensa fino in fondo, allora, e non coi soldi. Il messaggio di Angela Tremonti ai ministri che chiedono quattrini di continuo al ministro dell'economia: basta di chiedere soldi per farvi le vostre poi campagne elettorali o per utilizzare. Perché la buona cuoca in cucina arriva anche a dire che se non ce n'è, non ce ne vuole. E quindi si cerca e si tenta di utilizzare quello poco, che a volte era poco, soprattutto grattare, risparmiare, grattare, risparmiare, esatto. sempre. E poi i parlamentari, e questo lo ripeto perché l'ho sentito dire da tanti e anche da voi, credo che i parlamentari che si dovrebbero votare la diminuzione dei loro privilegi lo dimostrino accettando di tagliarsi veramente tanti benefici che spesso non sono assolutamente dovuti, anche perché molti parlamentari devono ancora fare gli esami di terza media. Ah, lei come dice? Lotta la signora lotta, Tremonti? Lotta, lotta. Beh, no, addirittura terza media, adesso così è. Beh, io ho un sindaco a Cantù che forse non ha fatto neanche l'avviamento ed è sindaco. È giusto, cade. È assessore alla cultura. Quindi penso di non, almeno uno me l'ho trovato, poi penso che se ne possano trovare molti, perché un po' di cultura, un po' di buonsenso, anche a mo' di Bertoldo, Bertoldino e Carcassenne, servirebbero a tutti, perché sprecare è facile, troppo facile, è molto più difficile risparmiare. È molto più difficile risparmiare e soprattutto è molto più difficile trovare nel bilancio di ogni ministero i soldi per da grattare. Ma lotta, sì, lotta! Dai, fermati, fermati, notizia clamorosa. Che è successo? Notizia... Che è successo? È appena arrivato Telese. Bravi! Ecco, è arrivato Luca, con Luca, la maglietta della Fiom. Con la maglietta della Fiom. Luca, vieni qua, blu. Vieni no, qua. No, è andato via a vestirsi alla trasmissione in onda questa ma sera. Ho capito, è tra 35 minuti. No, ma deve andare via, è arrivato, ha scritto l'intellettuale. Senta, ma che intellettuale? No, che intellettuale? Un attimo, voglio un giudizio definitivo da Angela Tremonti sul migliore imitatore del fratello. Allora, quella un attimo, le faccio ascoltare. Chi c'è? Telese? Luca? No, Telese è salito nell'ascensore. Vabbè, vabbè, allora non parlare, scusa, se no mi disturbi. Non parlare con altre persone, dico. Allora, giudizio definitivo da parte di Angela Tremonti sul migliore imitatore del fratello, però prima ascoltando le performance soprattutto qui alla Zanzara. Iniziamo con chi? Con chi iniziamo? Direi con Albertini. Albertini. Abbiamo deciso di non aumentare l'IRPEF, l'IRAP, l'IPIT, il TIOPIT, sì? Il TOBIN. Non si capisce. Cosa ha detto? Abbiamo deciso di non mettere le mani nelle tasche degli italiani. Questo era Gabriele Albertini. Gabriele Albertini. E lo saluto, che mi è anche simpatico. Però voto basso, voto basso. Non è molto bravo. Non è molto bravo. Anche lui dice che deve migliorare. Ora abbiamo un deputato del PDL, molto giovane, che si chiama Simone Baldelli, bravissimo imitatore. Via. Guarda, sono tutti buoni a fare i ricchi con i soldi degli altri, caro Parenzo. Se fosse il mio imitatore a darti la risposta, ti darebbe questa. Guarda, non vorrei che qualcuno sentendo la radio pensasse veramente questo è Tremonti. Allora, com'è? Bravissimo, bravissimo. Bravissimo, bravissimo. Sentiamo ancora... il ministro Meloni. No, senta, guardi, allora qui noi abbiamo la crisi economica... La gente sta morendo di fame, c'è tutto il mondo che sta in difficoltà. Io ho anche le ministre che sono isteriche, la Meloni è un po' isterica anche lei, e quindi io abbiamo tagliato qualche soldo anche a lei. Beh, per essere una donna non è male, eh? Per essere una donna forse dovrebbe avere una voce per imitarlo un pochettino più corposa. Vabbè, andiamo avanti. Ultimo, mi sembra, prima di Guzzanti, che non so se mettere lì, no, non lo mettiamo in corsa, Guzzanti no. È troppo facile. Il nostro mitico Andro Mercur, imitatore strepitoso, triestino, via. Guardi, io lo so, Cruciani, che questo... è pane per i suoi denti e va a cercare la polemica. Io non voglio assolutamente polemizzare, dico semplicemente non mi aspettavo che scadesse a questo livello. Allora, il giudizio definitivo su questi quattro imitatori. Vince il numero 2, di cui non ricordo il nome, il giovane. Ah, il giovane, Baldelli. E poi largo i giovani, ma mi chiedo una cosa, va. Sì. Quando sono lì a lavorare, sì, dedicano il tempo a fare l'imitazione di Tremonti o a fare qualcosa d'altro? No, ma era qui alla radio. Il più grande di tutti, comunque ricordatevi che è Gene Gnocchi. Ah, su Tremonti? Sì, assolutamente. Allora lo troviamo un attimo, che abbiamo la pubblicità, poi torniamo con lei, con Angela Tremonti, sorella, ma a lei non piace molto questa cosa, sorella di Giulio Tremonti, anzi lei dice che è il contrario. Eccoci qui, caro Parenzo, 800 24 00 24, siamo insieme ad Angela Tremonti. Scusa un attimo. Che no, è successo? Prego, dica. No, mi ha invitato una palestra. Una palestra, dunque, forse qua dietro la palestra. Ma sei uscito dalla 7? Sono uscito dalla 7, che palestra cercava esattamente? No, mi hanno detto, allora, arrivo dall'hotel Closet, sì. Cercavo una palestra, mi hanno detto, ce n'è una qui dietro là. Sì, magari possiamo chiedere anche a Mentana direttamente, forse, no? No, dico, giusto. Grazie. Arrivederci. Pronto. Ma scusa, chi era? No, un passante, un signore, io sono gentile, servizio pubblico faccio. Vabbè. Ero qua fuori a fumarmi una sigaretta, è passato un signore che mi ha chiesto scusi la palestra, perché non devo rispondere. Ma tu sei uno di quelli che esce dai posti, dai luoghi di lavoro e ti fumi una sigaretta, che tristezza. Ma se devo parlare al telefono con te per lavorare, perché sto lavorando. Renzi ti avrebbe già bastonato. Signora Tremonti, a lei piace Renzi come sindaco, cioè come personaggio politico? Sì. Sì, sì. Sì, non sì. È il mio sindaco, non lo conosco più che tanto, non ho avuto modo di approfondire. La cosa che posso sicuramente fare è augurargli buon lavoro. Vabbè, questo lo si augura a tutti. Senta, ma lei è un po' anticasta da quello che ho sentito, no? Cioè, questi politici dovrebbero fare qualcosa in più, non hanno fatto nulla su questa vicenda degli stipendi, dei costi della politica, tante chiacchiere, si prospettano addirittura le riforme costituzionali. Ci dica qualcosa. Suo fratello Giulio, Giulio poteva tagliare un po' di più. Io credo che Giulio possa e voglia tagliare. E chi è che glielo impedisce? Chi glielo impedisce? È che poi la cosa, il taglio deve essere anche approvato. Perché se Giulio volesse tagliare, il giorno dopo lui va a casa. Il problema è che se lui propone dei tagli ai parlamentari, ai ministri, eccetera, e li porta in Parlamento, siccome quelli che votano devono praticamente auto tagliarsi, non lo voteranno mai. E quindi è inutile, come se io dicessi, non lo so, vi propongo di tagliare i fili della radio e voi mi attaccate il telefono e mi dite ma questa che fa? Sarebbe una coglionata. No, scusi, però non è proprio... Non è proprio la stessa cosa. Non è la stessa cosa, in quel caso ci ammazza, e invece in realtà lì si tratta di tagliarsi un po' leggermente gli zebedei, per dirla in... No, io sono convinta che se li devono veramente tagliare. Tutti, dicevo, se li devono... Tutti, dal primo all'ultimo, e magari anche mandare a casa qualcuno, perché mi accorgo che c'è in giro troppa gente che veramente... A parte che non appare, non collabora, non è mai a Roma, ma è a casa in consigli di amministrazione a farsi gli affari suoi. Sì. Brava. Secondo me, veramente, in tanti, poi cominciare, non so, a fare una percentuale, chi è assente dal Parlamento per un tot numero di sedute, a casa. A casa, come dice Parenzo, a casa. Come in consiglio comunale. A casa. A casa, e poi vediamo anche che lavoro fanno, perché molti non sanno che lavoro fare. Questo è un momento molto radiofonico, perché è la finanziaria spiegata da Tremonti, non diciamo una falsità. D'Angela. Perché io non ho, io sono io. Tento di capire, tento di forzare, ma non conto nulla, perché poi la gente si rivolge a me chiedendomi cose, dicendo ma sai, devi dire a tuo fratello, ma come se io fossi lui. Ma io faccio arte. E ci parla ogni tanto? Riesce a parlarci lei? Ma perché... non parliamo di politica, parliamo di altre cose, di ricordi, di sport. Di politica mai, di politica mai. Ma che senso ha? Anche a me quando parlano di politica i miei cittadini, i miei quelli che mi hanno votato, sì, qualche spiegazione la do. Però ormai è una cosa che mi annoia, trita, ritritanto, non cambia niente. Basta, sì, sì. 800 24 00 24. Allora, signor Tremonti, io voglio capire una cosa, ma qualcuno dice che suo fratello conduce una vita monacale, una sorta di vita molto, molto parsimonioso. Lei lo ha detto, lo ha definito parsimonioso più che tirchio, che insomma sia una sorta di, no, di persona che proprio ha tanti soldi, però vive in maniera molto semplice, è vero? Io penso che Giulio sia nato e cresciuto in una famiglia dove il benessere c'è sempre stato. In fondo non eravamo una famiglia ricchissima, però il padre è farmacista, il nonno farmacista, quindi non c'è mai mancato nulla. Sicuramente a Giulio piace vivere bene, piace potersi vestire in un certo modo, però ha delle linee. Giulio non sarà mai quello che va a comprarsi una camicia di cavalli. Ama le sue Lacoste, ha un suo stile, ha un suo modo di essere, ha i suoi amici, sono molto pochi, ed è saggio, perché avere tanti pseudo amici vuol dire avere attorno tanti intralazzatori. Chi è il suo più caro amico? Non per farmi i fatti suoi, ma non sono tra i politici, non ha amici, no? Oggi come oggi il più caro amico di Giulio penso che non lo conosco, perché da tanto tempo che io e Giulio viviamo in città diverse, con impegni di lavoro completamente... Ma non vi sentite mai? Ma tra i politici ha amici? Io so che ha un grande amico, perché me l'ha raccontata nella presentazione del mio libro, che è Oscar Giannino. Ah sì, eh? Ah, ecco. Che sono molto amici. Bene. Si stimano reciprocamente. Infatti Oscar Giannino ha detto che il mio libro è un libro dell'economia dell'amore. Accostando alla... Cioè, ma si sentono quotidianamente? Penso, ho detto, Oscar Giannino mi ha detto che si sentono molto spesso. Beh, insomma, poi rivelazione. Gli amici del cuore, gli amici della montagna, gli amici con i quali va a fare le passeggiate. Tra i politici Nisba, eh? No, i politici, sinceramente, io li conosco molto poco. Se poi Giulia ha gli amici fra i politici, qualcuno credo che ce l'abbia. Sicuramente, perché non Berlusconi. Giulio si fa anche, ma io penso che anche più che amicizia, ecco, diciamo una cosa. Alla con Berlusconi non c'è amicizia, diciamo la verità. Stima ancora, c'è stima ancora. Ancora, nonostante quello che è successo? Ma io penso di sì, perché un conto è la vita privata di una persona e un conto è la vita pubblica. E io credo che Giulio, che si fa molto gli affari suoi, che non si permette di giudicare, anche se gli è scappata quella parola, fra l'altro, all'amico Brunetta. Beh, stupido e cretino da piccoli ce lo sono sempre detti. È un modo sintetico. Ah, lei dice che la parola cretino la usa spesso. Ma da piccoli noi andavamo in macchina, ricordo che ci aveva messo dietro il papà, e noi continuavamo durante un viaggio: scemo, stupido, cretino, scemo, stupido, cretino, scemo, come tutti i bambini, perché sono espressioni che, insomma, possiamo accettare da un ministro come le possiamo accettare anche da un amico. Però certo, quello da bambini, quando uno è un po' più grande in pubblico dice cretino un altro ministro, insomma. Se stiamo lì a guardare tutte queste cose, quando c'è da correre, da sintetizzare, per esprimere anche un'opinione, ma questa è una cretinata. Senti che cretinata dice, ma anche a me capita in consiglio comunale spessissimo, quando sento certi assessori, magari un conto, di dire all'amico: ma questo qui è cretino, ma non ho capito niente. È una tremontata, c'era un'espressione. Un'espressione tipica della famiglia Tremonti. Sì, dai, lasciatelo dire. Ma quello è un cretino. Ma quello è un cretino. Poi, diciamo, anche quello è una persona in gamba. Certo. Senta, ma perché non si è comprato una casa a Roma? Insomma, hai dovuto andare a casa di Milanese, casa offerta da Milanese, con tutto quel pasticcio che ne è derivato. Perché lei non gliel'ha detto, Giulio? Intanto io credo che Giulio, l'idea di comprare casa non sia una sua mania. Il mattone, lui da piccolo voleva fare il muratore, ma giocava con il pane e con il latte. Scusi, però pare che si è comprato un palazzetto, pare, a Milano di recente. Forse anche perché vive a Pavia, ma chi glielo fa fare ad andare a mischiarsi nelle vie romane? Ognuno poi sceglie un po' dove, e poi sinceramente anche qui in Cadore io ho un piccolo appartamento nella mia casa, sì. E se lei vuole venire qualche giorno io le do le chiavi, è libero, a me non costa nulla. Ma io non sono Tremonti, però. Crociani, ospite di Tremonti, bellissimo. Ma sono cose che si fanno anche con, tra virgolette, città e gratitudine. Poi Milanese è Milanese, Giulio Tremonti è Giulio Tremonti. Che vuol dire? È che ognuno si comporta poi a modo suo. Milanese lo conosco da parecchi anni e non lo stimo, non l'ho mai stimato. E come mai, scusi? Perché non lo stimo, perché le persone si sentono a pelle, anche se non la vedo, a me lei è simpatico. Ma gliel'ha detto a Giulio, gliel'aveva detto: attento a quello lì, attento a quel signor Milanese, gliel'aveva detto, signora, o no, lei, al fratello? No, gli avevo fatto capire che non mi piaceva, però a una persona può piacere una o a un altro ancora. Scusi, ma però che aveva diciamo sospettato qualcosa nel comportamento di Milanese? Non mi piace. Guardi, mi ha invitato a un compleanno, sì. Sono andata, parlo di 15 anni fa, sì. E l'anno dopo gli ho mandato un messaggio di auguri e non mi ha neanche risposto. Gli ho telefonato, non mi ha risposto, dopo un po' di giorni mi è arrivato un grazie. A me basta questo comportamento, che è una mancanza di rispetto. Cioè un cafone, un po' cafone. È sempre stato. Sempre stato un cafone. Per me sì, io ho la mia linea. Certo. Allora, pubblicità, torniamo subito. 800 24 00 24. Qualche ascoltatore, se ha ancora qualche minuto con noi. Angela Tremonti, artista, consigliere comunale a Cantù. l'ho detta come terza, l'ho detta come terza. Terza cosa, sorella di Giulio Tremonti, questo tocca dirlo per forza, pubblicità. Eccoci qui, 800 24 00 24, due collegamenti in questo momento alla Zanzara, sono le 20:13, 800 24 00 24, già l'ho detto due volte, Parenzo correggimi, David Parenzo, che sento un circondato da voci da Roma, che succede Parenzo? Come? Che succede? Sei circondato da voci? Dove sei? Sono andato un attimo in cabina di regia, eccomi. No, ma sei andato in bagno come al solito, va bene. Va bene, tanto è ormai un classico. Capita, per carità, capita. Infatti in diretta può capitare di tutto. Angela Tremonti in collegamento dal Cadore, in collegamento dal Cadore. Però vorrei sentire un ascoltatore. Come sa, signora Tremonti, qui c'è l'abitudine di sentire pure gli ascoltatori. Siccome aiuto, è un po' che friggono, no? Vabbè, ma su altri argomenti, per carità. Luigi da Forlì, buonasera, signor Luigi. Buonasera. Dica, che succede? Parenzo, no, ora ti abbasso l'audio se non sei, se no diventi inascoltabile. Luigi, dica. No, io volevo solo velocemente commentare la discesa che aveva fatto Podestà della 8, che mi sembrava una cosa veramente al limite dell'assurdo. E vabbè, cosa vuole che le dica? È così, sono il presidente, io dovevo avere un'auto. Allora, poi è una cosa veramente inascoltabile. Io sono il presidente. Allora, cioè, se tanto mi dà tamma, è una cosa. Però il punto, scusi Luigi, è che lui dice anche prima il presidente aveva un'auto di servizio superiore come gamma rispetto alle auto di servizio della provincia. Guardi. A parte che andrebbero le province, secondo me, andrebbero rase al suolo direttamente. Per cui, e insieme alle province, naturalmente anche le auto blu delle province. Siccome uno radia al suolo tutto, pure le auto blu, magari prima le rimandiamo indietro. Soprattutto poi dicendo: ah, ma poi chi si giustifica dicendo fra 4 anni mi giudicherà. Beh, ma c'entra. Il bilancio di un'azienda non si può mica. Cioè, no, ma da questo punto, da quel punto di vista, scusi, io voglio essere corretto. Podestà ha detto, e questo l'abbiamo controllato, di avere risparmiato, di aver ridotto in questi anni, da quando è presidente della provincia di Milano, le auto blu. Su questo non c'è dubbio. Ripeto, secondo me ci voleva un passo in più. Invece di ordinarsi per se stesso un'auto uguale a quella che c'ha a casa, solo che quella c'ha 350.000 km e quella di servizio è nuova, un Audi A8, doveva prendere un'auto come quelle degli altri assessori, eccetera. Ma non ho mai capito perché questi politici non possono poi usare le loro macchine. Questo è una cosa. A me lo dice. Qualunque altra parte del mondo. Il sindaco di Londra, io spesso sono a Londra per lavoro, bravo, va a lavorare con la sua bicicletta. A proposito di Tremonti, un'ansia uscita adesso, la politica Tremonti, bisogna tagliare le maxi pensioni della casta. Ma questo chi lo dice? Angela Tremonti o il ministro? No, dice Giulio Tremonti in una lettera. In una lettera. Può dirlo anche Angela Tremonti. Ma l'ha già detto, figuriamoci se non è d'accordo. Mi piace questo distinguo. Giulio Tremonti, in una lettera ai capigruppo di maggioranza di Camera e Senato, dice che bisogna tagliare del 5-10% i vitalizi, anche del 30, suggerisce la sorella. Suggerimento della sorella. Emendamento sorella. Emendamento Angela Tremonti, anche del 30 facciamo. Taglio del 5-10% previsto per le pensioni d'oro che superano i 90.000-150.000 euro. E che non colpisce direttamente i vitalizi dei parlamentari. Anzi, metterei un tetto alle pensioni massimo, che è già una cosa che mi sembra folle. Brava, ma faccia lei una controfinanziaria. Un 40.000, anche perché poi tutti questi super ministri, eccetera, quando diventano poi vecchiottelli, magari restano anche senza compagna, restano vedovi, hanno tutte le ragazzine che gli corrono dietro, non sanno che gli corrono dietro per la pensione. Quindi più sono vecchi, più hanno pensione, più hanno le ragazzine, perché poi c'è la reversibilità della pensione. E noi andiamo a pagare anche questa. Io la toglierei, la reversibilità della pensione. Però mi scusi, lei dice però che questa è notizia, lei dice alle agenzie. Tremonti due punti alle agenzie, voglio vedere se non la prendono. Non diciamo mica una bugia, andiamo alla Lanza. No, Tremonti due punti, sto scherzando. Però il punto è, lei dice che spesso ci sono i politici i politici un po' vecchia, insomma, vecchi hanno queste pensioni così cospicue che è per questo che tante ragazzine girano. Ma cosa se ne fanno? Che sono lì per... La dentiera l'hanno già messa, la badante la possono pagare, hanno la villa, ma poi la villa non riescono neanche a salire le scale. Ma io dico, ma cosa se ne... Io ho 60 anni. Ho vissuto una vita in cui ho potuto, forse meno, sicuramente dei ministri, godere di tante piccole cose che mi sono guadagnata col mio lavoro. Ma cosa me ne faccio di tanti orpelli? Per poi lasciarli in eredità ai figli, che li lasceranno morire anche loro negli ospizi o nelle grandi case per anziani di lusso, e non vedono loro anche i figli che muoiono per ereditare. Lo so, è così. Andiamo a sentire il traffico, poi torniamo. 800 24 00 24. Eccoci. Signora Tremonti, ma non se l'è tenuto un po' troppo, dato quello che ha detto lei prima su Milanese, questo consigliere, suo fratello? Insomma, sono un po' cavoli suoi, non so quali erano gli incarichi e tutto quanto, però io volevo introdurre un altro tema, proprio vi pizzico, faccio la zanzarina. Allora, da una parte abbiamo parlato dei parlamentari, delle superpensioni, però e credo che questa mia idea piaccia a molta gente, magari più giovani no, però facciamola anche finita di mettere, fare in modo che questi ragazzini lavorino per 180 giorni e poi stiano 4 mesi con l'indennità di disoccupazione. Brava. Vediamo un pochettino di togliere questo fannullismo di questi giovani che lavorano 180 giorni, poi stanno a casa a mangiare a casa di mamma e papà con un po' di euro, si comprano il telefonino, non fanno niente, fanno il lavoro nero. Scusi, signora Tremonti, però perdono il lavoro. Il welfare in Italia è quello che manca un po'. Ci vuole una protezione per chi perde il lavoro o no? Diamo piuttosto una protezione a chi perde il lavoro, a coloro i quali magari hanno superato una certa età oppure hanno dei figli da mantenere, perché avere tre bocche da sfamare è molto più importante di comprarsi il telefonino o giocare in Facebook o stare in giro a fare nulla. Ma non è che c'è gente che lavora in Facebook e che gioca in Facebook perché ha gli assegni dello Stato. No, però io conosco tanta gente, giovani, che potrebbero anche veramente trovarsi un lavoro alternativo, darsi da fare, e magari, ecco, si dice, ma i giovani non fanno i lavori che fanno gli extracomunitari. Oh, quello giusto. Vediamo di metterli un po' meno comodi, diamogli magari 200 euro per comprarsi giusto il telefono o il gelato. Questo è interessante, lei dice facessero i lavori che fanno gli extracomunitari, lei dice. No, ma soprattutto diamogli meno soldi nei mesi di disoccupazione, così si trovano un lavoro e frequentano un po' meno gli happy hour, che sono sempre pieni. Ma non è che li frequentano a spese nostre, ma quei soldini che alla fine del mese lo Stato gli dà per quei 3 o 4 mesi. Ma quando succede questo, scusi? Soprattutto nell'area del turismo, dell'agricoltura ce ne sono tanti. Vedremo. Questa è una pulce, valutiamola. Valutiamola. Non voglio imporre, però è un problema che secondo me va valutato. Ci sono tante persone che hanno 40 anni, hanno a casa 3 bambini da sfamare, perdono il posto di lavoro. E forse sono quelli che hanno maggiormente bisogno di essere aiutati, come gli anziani, piuttosto che hanno una pensione che è veramente ridicola. Largo gli anziani e vediamo di monitorare un po' questi giovani. Senta, signor Tremonti, ma mi dico una cosa, ma per tornare alla vicenda di Milanese, no? Ma l'arresto, lei, secondo lei farebbero bene ad arrestare la Camera o no? Guardi, io sinceramente Milanese l'ho conosciuto, non lo stimo più che tanto, però non Ma le accuse saranno vere, queste che lui insomma utilizzava il suo posto un po' per ottenere favori, addirittura dei soldi, queste ma le accuse? Guardi che io credo che veramente prima di me c'era qualcuno che diceva chi sbaglia lanci la prima pietra. Io dico che io sbaglio e lancio subito la pietra. Prima di giudicare gli altri bisogna avere un po' di prudenza. Io stesso ho sbagliato in tante cose e credo che comunque una posizione come quella dei politici si presti molto bene a questi favoritismi, a questi Ma non aveva troppo potere? questo non lo so, perché io sinceramente so che aveva il ruolo di portavoce di Giulio E poi di consigliere politico. Ne lo so sempre, ma secondo me Giulio da milanese di consigli se ne fa tirare sempre molto pochi. Forse il più grande consiglio era quello che sto dando adesso, gli avevo anche detto, guarda che milanese non mi piace, io sono un po' una streghina. Senta una cosa, ma è girata voce pure in questi ultimi giorni che suo fratello, adesso lo dobbiamo dire, Parenzo, lo diciamo, diciamolo, va, diciamolo. Qualcuno ha messo in giro questa voce che sui gusti sessuali. Sui gusti sessuali, sì, cioè l'omosessualità, eccetera. Ma scherziamo, Giulio ha avuto un sacco di donne. A Sondrio era la Lendelon di Sondrio, io credo che in Italia di uomini affascinanti di una certa età in politica ce ne siano molto pochi. Non perché sono sua sorella, ma sono un'esteta. Credo che Giulio sia una delle persone più piacevoli. Addirittura. Sì, lo dico, ma non perché mio fratello. Cioè, secondo lei è affascinante come uomo, insomma. È uno, provate a chiedere un po' di donne, dai, che siete alla Zanzara, chiedete un po' di donne, qual è l'uomo piace politico più affascinante? Sì, piace molto, veramente. Qui una piace donna molto, davanti, piace molto, voi, piace molto. Facciamo un sondaggio al volo, vediamo. Facciamo no, perché c'è una signora... è chiaro che a una che di sinistra non piace assolutamente, magari senti, piace c'è un fastino. Cane. È la Zanzara, Radio 24, posso chiedere, fare una, stiamo facendo un sondaggio. Però c'è il cane che mi sta aggredendo, mi sta per aggredire un cane. No, però chiediglielo esteticamente, non se gli piace come politico. È a tre mesi, però mi salta addosso, mi sporca i calzoni, amica mia. Comunque, chi è il politico più affascinante, secondo lei? Che bello. Lei, guardi, lei è proprio il più affascinante tra i politici. Ma io non sono un politico, però. Appunto. Forse ce la rivela. No, Tremonti, ad esempio, affascinante. Se mi salti addosso, come si chiama il cane? Mirtilla mi ha sporcato i calzoni, però giù Mirtillina mia. Per un albero. E Tremonti è affascinante? È terribile, guardi. No, ma non dal punto di vista politico. No, ha ragione. Grazie, guardi, la faccio aggredire la Mirtilla, se mi fa un'altra. È più affascinante Cruciani o Tremonti? Cruciani. Mi fa queste domande. Chiedo scusa. Hai trovato quella sbagliata. Io credo che Giulio sia un uomo a cui chi è che mette in giro queste voci, secondo lei? Beh, senta, di Berlusconi dicono, scusate l'espressione, che è un puttaniere. No, ma per carità. Di Tremonti, ignorante, non lo possono dire. Deficiente, poco gentile, non lo possono dire. Ma che dicano quello che vogliono, però vi assicuro che Giulio non è assolutamente. Anche se personalmente io stimo persone che hanno dei gusti sessuali diversi, Lorenzo Riva, un grande stilista, Cecchi Paone, quindi poi è di moda ormai, ognuno fa quello che vuole. Direi che proprio veramente se vogliono trovare qualcosa di Giulio potrebbero dire, non so, che ha il 43 di piede invece del 42. Senta, però tra l'altro queste accuse sono accuse, insomma, queste cose sono anche questi gossip, diciamo, che non sono assolutamente accuse, soprattutto in un momento particolare, perché credo che il ministro stia vivendo anche a caso una situazione un po' complicata, no? Signora Angela, o sbaglio? No comment. Cioè? Non ho capito. No, è una situazione complicata dal punto di vista dei non dei rapporti familiari. Ognuno ha i suoi problemi, perché tutte le case sono fatte di sassi. Certo. No, certo. E non auguro a nessuno di condividere i momenti che sta vivendo Giulio dal punto di vista politico e dalle pressioni che ha in mille modi, e veramente non è pietismo, ma vi assicuro che Giulio è un grande uomo, veramente, lo scoprirete poi più avanti. Perché lei, tra l'altro, in un'intervista ha detto che ha un brutto momento con la moglie malata, il figlio appena operato a Bologna. La moglie malata da un sacco di anni. Io del figlio a Bologna l'ho saputo da poco, non l'ho detto a nessuno, l'avrete saputo da qualcun altro. No, l'ho letto qui in un'intervista che lei ha fatto. Ho letto qui, avevo un'intervista davanti, eccetera. Vabbè, no, io non ho rilasciato, l'avranno saputo, non lo so. Anzi, chiedo che non mettano in bocca cose che non ho detto. Io dico che Giulio è un grande, ma non lo voglio difendere al 100% perché è mio fratello. Lui non mi ha mai dato una mano posizionale, una scultura, una statua. Leggete il mio libro e capirete molte cose. Giulio è una persona tutta ad un pezzo, è una persona che so che mi vuole molto bene. Quando io sono stata ammalata di cancro, si è messa a mia disposizione, è una persona a cui devo molto, però veramente, credetemi, è una grande persona. Poi non sia amato da quelli... Ma che vuole fare in futuro, no? Presidente del Consiglio, andare al Quirinale, che vuole fare? No, credevo lo chiedesse a me, diceva cosa voglio fare in futuro, vivere una serena vecchiaia da artista. E quella è la cosa più importante. E mio fratello, scusi, ma proprio... Non gliene frega niente. Sono un po' a fare i suoi. No, vabbè, che ne so, ma ha un'idea, lei volevo. Punta al Quirinale, che ne so. Io posso augurargli ogni bene. Una maga, quando eravamo piccoli, aveva predetto che Giulio sarebbe diventato presidente della Repubblica. E anche questo nel mio libro. Una maga? Sì, una maga. Ci aveva letto le carte, avevamo 6-7 anni. E aveva detto: sì, abbiamo visto tutti in famiglia. E adesso, ripensandoci, devo dire veramente che potrebbe essere il posto giusto, no? Sì, ma potrebbe. Ci puntava anche Berlusconi una volta, adesso non più, mi sa. Insomma, ognuno ha anche un po' la sua fortuna, e bisogna essere al momento giusto, nel posto giusto, con le persone giuste. E Berlusconi ha perso un po' di chance da questo punto di vista. Vabbè, abbiamo la borsa, poi salutiamo la signora Tremonti, 800 24 00 24, ultima borsa della Zanzara. Caro Parenzo, trovane un'altra però per capire un po' questa questione di Tremonti. Stiamo per essere aggredito. A tra poco. Eccoci per salutare, ringraziandola, Angela Tremonti, di essere stata con noi. Io vi ringrazio e soprattutto vi prego, vogliatevi bene. Al mondo bene, volendoci sì bene tutti, destra e sinistra, umanamente. E poi la politica sì, è molto importante, però cerchiamo di vivere il giorno passo passo, se si può. Cioè, vivere la giornata, dice lei? Passo passo, è diverso, passo proprio passo. Continuando a ringraziare il Signore che mettiamo i piedi per terra e che siamo vivi, che forse è una cosa che dimentichiamo troppo spesso, ma non è un moralismo. È una cosa che sento dentro come un saluto, ecco, di amore per tutti, e soprattutto un saluto affettuoso a quelli che stanno rientrando adesso dal lavoro, come capita spesso a me quando torno dalla fonderia e ascoltano Radio 24. Grazie. Bello, un abbraccione. Sentiamoci presto. Grazie. Sentiamoci presto. Abbassiamo questa IRPEF, però, se può. Abbassiamo questa IRPEF. E che posso fare io? Io lo dica Giulio, sta IRPEF. Abbassiamo queste tasse. Lui dice che non si può fare. Avete più voce voi con la televisione. Ma no, vogliamoci bene, quello sicuro. Viviamo passo passo, sicuro. Abbassiamo un po' l'IRPEF e viviamo un po' meglio, vedrà. Se potessi farlo, lo faccio. Glielo dica, va bene, sarà grazie. 800 24 00 24, questa è la Zanzara su Radio 24. Come avete sentito, andiamo a Roma da Mario. Buonasera. Buonasera, direttorissimo. Dica. Un saluto anche affettuosissimo a tutte quelle persone che tornano dal lavoro e che non vivevano in un appartamento da 8.000 euro al mese, come il nostro ministro dell'economia. Mi ha fatto un po' ridere la signora prima, sai, mi stavo ammazzando alle risate. Quando gli ha ricordato che il ministro vive in un appartamento da 8.000, ha detto che non amava acquistare appartamenti. Beh, è vero, però a Roma, perché io poi gli ho ricordato che recentemente, da quello che ho letto, Tremonti ha acquistato una palazzina, magari per investimento. Ha detto che non ama il mattone, così ha detto. Infatti lei poi l'ha sgamata, come si dice. Sgamata. Ho detto che di recente sembra che Tremonti abbia acquistato un palazzetto a Milano e probabilmente non ama i vicoli romani, come ho sentito dire appunto dalla signora Tremonti, dalla sua. E però viveva in un appartamento da 8.000 al mese. Viveva in un appartamento che gli era stato consegnato dal signor milanese. Così pazze, come si dice a Napoli proprio. Vabbè. Comunque il mio intervento era un altro. Sì. Ho un ospite qui al mio fianco. Che è successo? Ho un ospite qui al mio fianco. Chi è? Luca Telese, è la signora Tortora, che ha appena finito di condurre il telegiornale. Te la passo, vola salutare. Buonasera Giuseppe, buonasera a tutti. Signora Tortora, come sta? bene, grazie. Ma voi ancora perdete tempo con Parenzo? No, vabbè, questo che c'entra? Noi perdiamo tempo con Parenzo quotidianamente, questo è il dramma, il dramma assoluto. Prima ha rischiato di farsi mordere da un cane perché doveva chiedere, questo è un po' lo spirito della zanzara, doveva chiedere ad una passante, ad una passante, se il ministro Tremonti, siccome avevamo in collegamento la sorella del ministro Tremonti che sosteneva che è molto affascinante il fratello, che non è vero che è omosessuale, che invece è una persona che piace molto alle donne, insomma doveva fare un piccolo sondaggio così estemporaneo. Ecco, la signora Tortora pensa che Mordo io allora, guardi. No, la signora Tortora pensa che Tremonti sia un politico affascinante dal punto di vista così fisico, cioè proprio come bellezza fisica, come presenza. Beh, diciamo, io rimarrei sui contenuti in questo periodo. In questo senso soprattutto. Al di là, diciamo, della forma fisica, sarebbe meglio rimanere sui contenuti. Vabbè, adesso subito sul serio. Ho capito, io voglio chiedere alla signora Tortora, che è una donna, sì. Se... ammesso che io sia una donna, no, no, questo lo possiamo confermare, almeno questo lo possiamo confermare. Se pensa che Tremonti sia un politico affascinante, questo si può dire. Ogni tanto... ha un suo perché. Ecco là. Va bene, grazie signor Tortora, buon lavoro. Grazie lavoro. Senti, ma è sempre così seriosa la signora Gaia Torta? Ha appena condotto il TG del prime time, cioè voglio dire... È troppo seriosa, sto scherzando. Seriosa, naturalmente. È una giornalista, un volto della Sette, non è che voglio dire... Vabbè. Con chi eravamo? Con Mario? Sì, sono qui. Eccoci, Mario. Sì, volevo parlare un attimo, però le volevo dire un attimo una cosa che mi è venuta in mente, che le volevo dire già da un po' di tempo, ma... Boh, è venuta la giornalista, mi è venuta in mente, ma perché il TG di Berlinguer quella volta lo faceva annunciare dalla Polanco, adesso da quest'altro? Mi sembra un po' come un'offesa, dico la verità. Ma no, nella maniera più assoluta, guardi, è per creare il contrasto più assoluto. Ho capito, cioè il contrasto tra i titoli del TG3 e l'annunciatrice che viene dal mondo berlusconiano, una cosa strepitosa. Sì, ma sempre quel TG libero. Mi autoelogio. Vabbè, guardi che alle 19 non c'è molto da scegliere, caro Mario, cioè, io non so perché devo spiegarle come faccio la trasmissione, se vuole glielo spiego, non è molto interessante. Alle 19 a me piace moltissimo il TG3, tra l'altro, perché lo trovo straordinariamente fazioso, limpido, chiaro, trasparente, per cui è anche capiti. Ben fatto con interviste. Ma non ha capito. Ma che c'è? Lei non ha capito niente, io lo adoro il TG3, io lo adoro. Cioè, siccome lei è una persona che non ripete sempre le stesse cose, no? E gli piace il gioco che dura poco, perché sempre quel TG è sempre poi con queste voci? Ma queste lei fa della dietrologia, una per lei c'è dietro ogni cosa, c'è chissà quale trama, voglio denigrare il TG. No, ma mi diverto, scelgo il TG3 perché alle 19 c'è il TG3, altrimenti se ci fosse stato un altro telegiornale alle 19 avrei messo un altro telegiornale a farlo annunciare da una signorina. Ma scusi un attimo, ma una volta non c'erano le annunciatrici anche per i telegiornali o comunque caro direttore. Paragonare le annunciatrici dei telegiornali alla Polanco e a quell'altro. Vabbè, lei non ha ironia, va bene Mario, che non ha ironia, va bene. Vabbè, ma io le ho fatto una domanda, lei mi ha dato una risposta e io prendo per buona la sua risposta. Vabbè, allora, andiamo avanti, su. Allora, volevo un attimo commentare le parole di chi è questo cane, scusa, di chi è questo cane? Mio, adesso se vuoi indaghiamo. Ma c'è un cane che... Vabbè. Mario. Vieni giù, hai coraggio, vieni giù. Chi vieni è? Giù. Ma come? Che stai facendo? Stai litigando col cane? Scusa, non ho capito. Lo sto sfidando. Vieni giù, se hai coraggio. Facile parlare. Vabbè, lì, ma è pazzo completo. Vabbè. Mario, prego. Vabbè. Allora, volevo. Il cane della Maiolo, chi è? Ho ospitato il cane, ho ospitato. Vabbè, Mario, dica su. Sì, volevo commentare un attimo le parole della Lega. Commenti, però, con una certa anche sintesi, A un certo punto mi è diventata giustizialista, vuole far arrestare Papa, dice sì alla rinvio giudizio per il ministro Ceromano, si è parlato anche di Dell'Utri, se non sbaglio. Ma queste persone, in questo caso no. Comunque. Della Lega, dove erano quando questi personaggi sono stati eletti? Ora non so Papa, però io mi ricordo bene. Ma Papa che c'entra? Quando è stato eletto non si sapeva nulla. Io, se mi ricordo bene, quando è stato eletto Romano già si sapeva che questa persona era indagata per mafia. No, eletto il cosa nostro... c'entra? Nominato ministro, dice. Nominato che. Ministro, scusi, direttore. E il nostro presidente del Consiglio e anche il presidente della Repubblica, a volte viene osannato, il presidente vuole salvare, ha firmato e l'ha fatto legge. Cioè, dico io, poi lui dice, vabbè, le leggi se me le mandano qui, poi le rimandano indietro, io le devo rifirmare. ma si potrebbe anche dimettere e non firmare queste leggi come altre leggi. Dimettere il Presidente della Repubblica. Ah, si dimette il Presidente della Repubblica. Eh sì, si dimette il Presidente della Repubblica. Un po' di dignità, un po' di dignità. E per cosa si dovrebbe dimettere? No, ma non lo so, non ho capito. Ma l'ha fatto ministro Romano, che era un ministro indagato già per mafia, e per aver firmato altre leggi vergogna, che sono scritte sui giornali, sulle dette dalle varie trasmissioni e da inchieste. Lui dice, io ho sentito una volta, ha detto Napolitano, se la legge io la rimando indietro, poi me la rimandano qui e la devo firmare per forza. È vero questo, dico? Per forza. Quando ci vuole, ci vuole. Ci vuole. No, ora lei mi deve dire perché. No, Mario, abbiamo pazienza. Ora dica lei dove si trova. Ci dica dove si trova esattamente. Perché non si trova a Roma, lei si trova in un altro posto. Su. Comunque, vabbè, lei faccia la tira, l'ambulanza, io parlo, in modo che i cittadini almeno, cioè, capisco. No, Mario, adesso lei non parla più perché ha parlato già troppo. La ringrazio. Giorgio da Milano, buonasera. Adesso parla con i medici quando arriva. Pazienza, cioè, lei che. Mario, cioè, il comizio va bene, però fino a un certo punto. Giorgio. Con i medici parla, può parlare di Napoli. Con i medici, certo. Voglio che il Napolitano si dimetta là nel lettino. No, voglio che si dimetta. Stia calmo. Intanto lo legano. Napolitano ha firmato. Sì, Stia calmo. Giorgio, dica. Sì, avrei una serie di suggerimenti per migliorare finalmente la situazione di questo paese. Ah, beh, anche io. Finalmente, eccolo qui. Molto bene. Dica. Visto che gli zebedei, come dicevate prima, loro non se li taglieranno mai, ma continueranno nel compenso ad affettare i nostri. Sì. Penso che l'unica soluzione in questo momento sia un tavolo con la dottoressa Mercegaglia, la signora Camusso. Non lasciamo perdere. Qui in questa trasmissione meno si pronuncia il nome Mercegaglia, meglio è. I rappresentanti delle altre organizzazioni sindacali, i rappresentanti degli imprenditori, tutti insieme a fare cosa? A prendere un caffè, a chiacchierare, che cosa? Di che dovrebbero parlare? E che fra tutti decidano un bello sciopero. Tutti, pure la Mercegaglia dovrebbe decidere lo sciopero. È giusto, dovrebbe essere per la prima volta nella storia uno sciopero promosso non solo dalle associazioni sindacali, ma per la prima volta nella storia anche dagli imprenditori. Dove si trova? Dove si trova, signor Giorgio? Dove si trova? In che luogo si trova? A Milano. A Milano, in che via esattamente? In che zona? Perché si devono rendere conto, una volta per tutte. Non così è sereno. Il vero nemico comune che hanno è lo Stato. Sì, lo Stato, sì, certo. Quindi, Giorgio, quando arrivano gli infermieri... Non aggravi. Sciopero a oltranza, beh, certo. Il governo non si impegna a fare immediatamente almeno una decina di provvedimenti. Per esempio? Che vanno dalla eliminazione assoluta del rimborso delle spese elettorali e vanno alla trasformazione Va anche bene quello che dice lei, è il metodo che non mi sembra applicabile. Non ce ne sono altri, sciopero a oltranza, cioè bloccare l'Italia, questo lei propone. Andiamo avanti ancora un po', arriveremo veramente a una sommossa, a una rivolta popolare. Forse è peggio. Però scusi, intanto, Giorgio, guardi, quello che arriva è l'ambulanza, poi la sommossa vediamo. Intanto arriva l'ambulanza comunque. Traffico. Non voglio che finisca questa sera, Parenzo, non voglio che finisca questa sera, No, andiamo avanti a oltranza, andiamo avanti. Allora, anche perché fioccano le ambulanze. Stefano dalla provincia di Pescara, buonasera, 800 24 00 24. Buonasera Cruciani, io volevo fare un intervento sulla signora Angela. Angela, non mi cada su questo, Stefano. Sì, però scusi, no, mi è venuto un dubbio atroce, ma era veramente la sorella di Tremonti o uno scherzo organizzato da lei? No, che scherzo, no, la sorella di Tremonti non è che sia una persona conosciuta, non è che si può fare l'imitazione della sorella di Tremonti, la facciamo di Tremonti. Ma... No, perché sembrava quasi una caricatura, cioè nel senso che... La sorella di Tremonti non è che è la sorella di Allora papà, era veramente cioè... la sorella di Tremonti, no, perché non posso credere che ci abbia fatto il pistolotto sul risparmio della politica quando cioè perché non lo dice a suo fratello che no, fa scusi, parte della però, politica da che tanti c'entra anni. Non è che perché non potrebbe fare il pistolotto sul fatto che la politica deve risparmiare, che bisognerebbe tagliare molto di più, scusi, perché no, quale sarebbe l'ostacolo personale o morale che Le persone sono individui, ognuno parla per sé. Ho capito, ma siccome ha difeso il fratello su tutto, ma non ha speso una parola sul fatto che il fratello fa il ministro dell'economia e quindi poteva fare qualcosa in questo senso, no? Sì, certo, abbia pazienza. Stefano, si può fare qualcosa, infatti in questo frangente Tremonti propone e vorrebbe un taglio più forte, eccetera. Dopodiché non è che lo posso dire alla sorella, abbia pazienza. Cioè, sa perché? Siccome la signora se l'è presa col tipo col sindaco di Cantù, che immagino quanto sindaco di Cantù. Con i giovani, invece del fratello che fa il ministro. Cioè, la sui difesa, giovani non l'ho capito il discorso, comunque. No, non si ricorda che ha detto che bisogna togliere la disoccupazione ai giovani. Quelle sì, no, vabbè, ma non ho capito bene a cosa si riferisse. Quella mi sembrava una cosa un po' confusa. Un po' confusa. Va bene, grazie Stefano. Andiamo in provincia di Varese. Daniela, dica. Buonasera Giuseppe. Prego. Volevo dire che io trovo che il ministro Tremonti sia veramente affascinante. Oh, abbiamo trovato qualcuno che... Beh, no, anche la signora, prima la signora Tortora l'ha detto in realtà. Sì, eh? Sì, infatti ho sentito. A lei piace quando è in televisione questa aria da intellettuale? Sì, no, a me piace. Primo, è un uomo misurato. Sì, però io voglio capire, a lei piace come politico o come uomo? No, allora, mi piace come uomo e come politico. Ah, tutte e due. Vabbè. Sì, ultimamente meno. Cioè, perché... una storia se la farebbe, insomma. Detto con tutto il rispetto, sì, detto con tutto il rispetto. Io non so quale sia la sua situazione, non voglio nemmeno saperlo. Ha una moglie. Rispetto, sì. Con tutto il rispetto, sì. Lei si farebbe una bella storia con il signor Tremonti. Vabbè. Sì, lo trovo affascinante, cioè è come deve essere un uomo, capisce? Beh, addirittura adesso. Oh, beh, addirittura. Sì, l'uomo ideale, sì, l'uomo ideale. L'uomo ideale, io lo trovo l'uomo ideale. Comunque, lei è, dunque, da questo punto di vista, è tranquillizzata dalle cose che ha detto... dalle molto. Cose che ha detto la signora molto. Tremonti, la sorella, dicendo che guardate, tutto è tranne che omosessuale. No, meno male che poi le camicie di cavalli non le compra, scusi. Beh sì, insomma, camicie di cavalli era francamente un paradosso da parte. No, non esiste. Cioè un uomo si deve vestire così. Va bene. Grazie signora Daniela. Lo trovo grazie. Veramente affascinante. Bene, de grazie. De gustibus. Matteo da Modena, buonasera. Sì, buonasera. Dica. Io voglio vedere che secondo me i vostri discorsi che state facendo ultimamente mi sembrano tanti discorsi di un personaggio che lei disprezza altamente. Vediamo se riesce a dirmi chi è. Chi sarebbe? A me sembra tanto i discorsi che fa Beppe Grillo. Chi? Della casta, di quelle cose lì, insomma. Boh, poi vengono tutti sputtanati su Facebook. Noi non sputtaniamo a muzzo, come si dice in siciliano. Contro tutto e tutti, caro Matteo. No, però insomma le cose che succedono sembra quasi. Sì, ma non è che la casta l'ha scoperta Grillo, cioè non è che l'esistenza della casta dei politici l'abbia scoperta Beppe Grillo, tutt'altro. Però mi sembra che lui sia l'unico che la voglia sputtanare, al contrario di alcuni giornalisti leccapiedi che guai a dire delle parole contro i politici, ecco. Ma chi lo dice? A me questa idea di giornalisti leccapiedi è un'espressione che non mi piace, però bisogna sempre specificare chi sarebbe il leccapiedi e come si manifesterebbe questo leccapiedismo. Il leccapiedismo sono quelli che fanno finta che non succede nulla, come fa molto spesso anche lei. Ecco. Io sarei un leccapiedi, dunque. Ma no, leccapiedi è... insomma, una persona che non si espone più di tanto. Non si espone, invece per esporsi bisogna dire che la politica fa tutto schifo, che è tutta una merda, che bisogna abbattere tutti, che i partiti sono finiti, sono morti. Questo dice Grillo, sono morti, sono finiti. Però neanche dire va tutto bene. Ma io non dico che va tutto bene, chi dice che va tutto bene? Ma chi lo dice questo, Matteo? Chi lo dice? Chi lo dice? Chi lo sostiene che va tutto bene? È la cosa che capita più spesso in questa trasmissione. Ma lei ascolta un'altra trasmissione, si sintonizzi meglio, Matteo. Guardi la frequenza, la controlli meglio a Modena. Mi sa che lei si sintonizza su un'altra trasmissione. Quando telefono a qualcuno che non è d'accordo con voi, per esempio, spesso succede che mandate l'ambulanza. Ma no, ma che cosa strana, Matteo? Non essere d'accordo con qualcuno? Ma è una cosa bizzarra il fatto che ci siano idee diverse, opinioni diverse. Ma questa cosa di prendere in giro gli spettatori mandando l'ambulanza. È un nostro gioco, ma ci vuole proibire di giocare? No, capito, però sarebbe divertita che sentire l'ambulanza ogni volta che parla. Sì, scusi. Matteo, ho capito la critica, ma Il punto non è questo, non è che si trattano le persone in maniera diversa. Ci sono gli ascoltatori e ci sono gli ospiti, sono due modalità completamente diverse dal punto di vista della... diverse. Se lei non l'ha capito, va benissimo. Cioè, lei cosa si aspetta? Noi i politici li sbeffeggiamo dalla mattina alla sera, nel modo in cui... magari sarebbe anche divertente sentire partire l'ambulanza. Vabbè, lei vuole l'ambulanza per i politici. Prima o poi... ma Borghezio, a me mi fa ridere, che ambulanza devo chiamare? Abbia pazienza, Matteo. A chiunque fa ridere Borghezio, però insomma... Ma non è che poi noi la mettiamo l'ambulanza sempre, anzi erano giorni che non la mettevamo in realtà. Mesi, direi quasi. No, mesi, forse no, insomma. Sì, qualche mese era. Vabbè, Matteo, grazie. Maria da Siena, buonasera. Sì, buonasera. Dica, anche lei piace Tremonti? Non esattamente, no, ma non volevo parlare di gusti di uomini, insomma, volevo parlare di una cosa che ha detto Angela, invece, sì, interessante. Sì. Perché è vero, io ne conosco un paio che alcuni giovani si prendono la disoccupazione sui 700 euro e poi sono a giro a bere gli aperitivi. È proprio una grande verità. Ma che vuol dire? Non sono riuscito a capire questa cosa, me la spieghi lei? Vuol dire che se uno ha accumulato un po' di contributi, a un certo punto perde il lavoro, il contratto era a tempo determinato, ma a un certo punto non lo cerca un altro lavoro, sta a casa, fa gli affari suoi. Scusi, ma bisogna vedere cosa significa. Uno perde il lavoro, ha un po' di disoccupazione, sì, che è minima. Sono 800 euro in Toscana. Ma non chi ci fa uno con 800 euro? Ma che oggi fa? Oggi si fa molto poco con 800 euro. La sera si vive anche, non si vive molto bene. Si ma vive, insomma, si sta a casa, sì, diciamo, si sta a casa. Lei dice se uno è molto giovane può anche rimanere a casa e spendere quei soldi non per campare ma per divertirsi. Sì, sì, e vabbè, non cercare un lavoro. Guardi, che bisogna rimodulare tutto quanto, d'accordo, che bisogna partire da questi soldi dati a giovani che perdono lavoro, non lo so. Bisognerà capire i requisiti per darli alle persone giuste, insomma. No, ma sicuramente. Grazie. Loris da Parma, velocemente perché dobbiamo chiudere. Loris, sì, pochi secondi. Volevo solo intervenire sul discorso che lei ha intrattenuto con il signor Podestà. Niente, una precisazione. Siccome lui era sfuggente alle sue domande che lei incalzava sul fatto che poteva fare delle scelte diverse con l'auto, ha detto delle imprecisazioni molto importanti che sono quelle che fanno di questi organi. Ne parliamo domani, ne parliamo domani, Loris, la richiamiamo, 800 24 00 24, la musica indica che dobbiamo andare via. Caro Parenzo, ci sentiamo domani, 18:30. Sì. Ciao, ciao. Ciao. Perché lei ha scelto una macchina diversa rispetto alle altre che ha ordinato, le Ford Focus, per tutti gli altri? Perché il presidente? Perché sono il presidente, lei ha detto perfettamente. Mi dispiace, ma io so io e voi non siete un cazzo. La Zanzara, il titolo più di merda del mondo. Soltanto tu potevi inventarti un titolo del cazzo come quello. Soltanto tu. Ricordati che devi morire. Come? Ricordati che devi morire. Va bene. Ricordati che devi morire. Sì, sì, no, mo me lo segni proprio. C'è una cosa... Non mi preoccupare. Radio 24. La passione si sente.